Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, bentornati a Smart City. Continuiamo a parlare di brain marketing con Fabio Babiloni, professore di neuroscienze del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università La Sapienza. Buonasera Babiloni, bentornato. Buonasera, buonasera. Allora, ieri abbiamo parlato dei risultati della prima indagine, della prima ricerca di brain marketing effettuata in Italia nel comparto ortofrutta. Oggi vogliamo un po' allargare il tema. Intanto ricordiamo un po' che cosa si intende per brain marketing. Sì, la possibilità di misurare l'attività cerebrale ed emozionale durante le nostre scelte di acquisto. In questo caso era applicata al settore dell'ortofrutta. Ecco, perché è così importante misurare addirittura l'attività cerebrale? Perché voi vedete proprio che si attivano certe aree del cervello che corrispondono, per esempio, magari all'attivazione di una memoria di lungo termine, piuttosto che all'attivazione di certi stati emotivi che aiutano a fissare i ricordi. Perché è così importante? Non si potrebbe capire in modo più semplice? Ecco, questo quesito ha tenuto le persone che lavorano nel marketing per 50 anni inchiodati al fatto del perché le interviste verbali poi non rendevano conto di quello che poi le persone come noi facevano dentro i supermercati o dentro i negozi. In altre parole, un dato che le vorrei offrire è che il 70% di ogni nuovo prodotto che si genera su questo pianeta viene ritirato dal mercato nei primi 6 mesi. Questi prodotti sono lanciati sulla base di interviste accurate, eccetera, però le persone poi si comportano in un modo diverso da quello che dicono, no? Questo ormai. Perché? Perché siamo davvero padroni delle nostre scelte? Esatto, e qui il punto è che le neuroscienze ci offrono una visione del funzionamento del nostro cervello che non è soltanto quella della nostra corteccia cerebrale, quella che ci sta facendo parlare in questo momento. Esistono molti centri, cioè agglomerati di neuroni dentro il nostro cervello che possono farci scegliere, quindi muovere fisicamente il braccio dal prodotto nel nostro carrello al supermercato, ma che non hanno accesso alla parola. Questo vuol dire che ci sono molti noi dentro la nostra testa che possono comprare cose. E non tutti sono in grado di dirlo. Esatto. Esplicitamente. Quando viene chiesto solo un noi parla di quello che gli piace, però ci sono altri noi che invece fanno scelte e spendono. E questi noi bisogna misurarli in qualche maniera. Cioè l'emozione o l'interesse cerebrale che viene generato dai prodotti, sugli scaffali o anche dalla pubblicità può essere misurato, e può essere misurata quella parte di centri decisionali che invece noi non possiamo, a cui non possiamo accedere con le interviste. Con le interviste, è molto chiaro, è molto chiaro. Quindi questo consente evidentemente di mettere a punto tutta una serie di aspetti. Ieri vedevamo mettere le facce di un agricoltore sulle mele, faceva vendere di più per una serie di ragioni che adesso non possiamo ripetere, ma come consumatori cosa dobbiamo pensare di queste tecniche di marketing? Perché uno pensa, oh mio Dio, ma qui io entro in un supermercato e mi telecomandano letteralmente. Beh, come ho detto, la conoscenza è importante per poter avere anche messaggi che ci siano utili. Noi siamo bombardati da pubblicità inutili, nel senso che ci danno fastidio perché sono congegnate e non offrono le informazioni che cerchiamo, mentre invece ci disturbano certe volte, lo possiamo dire. Assolutamente. Quindi la capacità di questa comunicazione commerciale di essere più efficace nel portarci le informazioni che vogliamo, secondo me è un fatto importante. Per non parlare del fatto che poi questo apre tutta un'altra serie di campi. Ecco, che invece mi interessa brevemente ricordare. Ecco, ricordiamo che queste tecniche, appunto, ci tenevo, non si applicano solo alla pubblicità. No, si applicano al controllo di processi di guida, per esempio, no? Le immagini di un pilota di un aereo che sta su un sistema che costa centinaia e centinaia di milioni di euro, che vola, porta 1000 persone, nel futuro sarà così, e tutto questo dispositivo, tutto questo aereo non sa niente se il pilota è in difficoltà, sta dormendo, ha un infarto, esatto. Questo secondo me fra 10 anni, quando vedremo queste cose dei nostri predecessori, diremo ma come hanno pensato di poter fare una cosa del genere. Ecco, ma è anche immaginabile per esempio sviluppare tecniche di apprendimento, di insegnamento che facciano leva su questi meccanismi inconsapevoli. Penso anche ad altre cose. Lei parlava di pilotare l'aereo, ma noi tutti bene o male guidiamo un'auto, e uno può immaginare che ci siano sistemi di segnalazione che magari attirano di più l'attenzione. Non so se dico delle cose stupide o... No, guardi, noi come Brinsen siamo coinvolti da pochi giorni in un progetto europeo che aspira esattamente a capire come fare a segnalare meglio queste, ecco, per quanto riguarda la guida più sicura. E il concetto è che l'uomo è al centro di tutte le azioni che facciamo. Misurare l'uomo dà una capacità di comprensione maggiore del nostro ambiente. Va bene, grazie ancora professor Fabio Babiloni. Buonasera, grazie mille. È tutto anche per questa sera, appuntamento a lunedì, settimana prossima programmazione speciale. Metteremo a confronto le più importanti tecnologie per efficienza energetica nel settore residenziale con l'aiuto degli esperti di RSE, Ricerca Sistema Energetico. A lunedì, allora non mancate, buon fine settimana.